Salve a tutti, oggi è il pane delle rose, andrà in onda una puntata che in realtà dovevamo mandare in onda un po' di giorni fa, però sono successe tutta una serie di cose importanti e questa puntata l'abbiamo slittata, non perché non sia importante, è perché effettivamente c'è stato l'infortunio mortale in tangenziale, lo sciopero nazionale di secondo livello dei facchini Amazon, cioè, e abbiamo dovuto per forza, per dovere di cronaca, per dovere di importanza, parlare di questo che è successo. Ma l'8 aprile siamo stati a Suviana, in cui c'è stato un convegno, un incontro che ha visto organizzato dalla CGIL per ricordare un anno dalla strage di Suviana. Ora, lì abbiamo ascoltato tutti gli interventi, non siamo intervenuti chiaramente perché gli interventi erano tutti già organizzati per chi doveva intervenire, però abbiamo parlato con tutti quelli che sono stati lì, che hanno fatto una serie di interventi, sono state varie categorie che hanno partecipato alla CGIL, ma di tutte le interviste che abbiamo fatto, una in particolare è stata quella Stefania Pisani, chiaramente la segretaria della FICTEM, che è il sindacato che è più è stato coinvolto nella strage di Suviana. Stiamo parlando dei chimici industriali, chiaramente lì sappiamo che c'era un appalto dell'Enel, la strage si è consumata in un subappalto Enel, e con lei abbiamo affrontato tutta una serie di questioni che insomma lei ci racconterà, che ci spiegherà e ci dirà delle cose molto interessanti su quello che è accaduto prima della strage di Suviana, di cui non se ne è parlato tanto, e di quello che è accaduto anche dopo. Poi nella conclusione parleremo anche di come sta andando, come quello che sta succedendo, insomma c'è tutta una questione legale che sta andando avanti, e parleremo anche un po', diremo delle cose in base alle quello che ha dichiarato Stefania Pisani. Insomma, ci sono delle osservazioni da fare, secondo me, di carattere tecnico-politico. Adesso ascoltiamo questo bellissimo pezzo, poi ci sentiamo Stefania Pisani e poi ci sentiamo per le conclusioni. A dopo. Allora, siamo qui a Castiglione dei Pepoli, all'iniziativa dopo un anno della strage di Suviana. E ho qui l'occasione di parlare con Stefania Pisani, che è la segretaria della FICTEM di Bologna. Ha fatto un bellissimo intervento, mi ha colpito, per questo ti ho chiesto di parlare, di raccontare un po' quello che, di cui hai parlato. E, insomma, un anno è passato. Esattamente, è passato un anno, che ha determinato, come dire, anche la risoluzione in parte di una vertenza che aveva messo al centro quelle che sono tematiche che stanno emergendo adesso rispetto a quella che è stata la strage di Suviana. La tematica che per noi è stata principale in termini di vertenza con l'azienda prima dell'evento di Suviana è una tendenza dell'azienda a esternalizzare competenze importanti per ragioni collegate alle concessioni idroelettriche, ma sorvoliamo, come dire, su un capitolo che andrebbe approfondito, ma che a nostro avviso come lavoratori e come rappresentanze dei lavoratori rischiava di compromettere tutto il processo di sicurezza del flusso produttivo, soprattutto in complessi industriali così delicati. Anche perché questi complessi industriali necessitano di manutenzioni ordinarie. Certo. Nel momento in cui si riducono le competenze delle manutenzioni ordinarie, il rischio sulla sicurezza inevitabilmente aumenta. Questo era al centro di uno sciopero che qualche giorno prima della strage di Suviana ha visto la partecipazione in tutta Italia di oltre l'80% dei lavoratori. Uno degli scioperi più riusciti, sottolineo, in aziende dove la fidelizzazione, certo, è importante nei confronti dell'azienda, quindi quell'80% ha un valore simbolico e qualitativo che va abbondantemente oltre i numeri. Certo. Evidentemente era un tema profondamente sentito da tutti i lavoratori di Enel. È un tema che è andato in risoluzione dopo la strage, perché evidentemente la sensibilizzazione è dovuta passare per una strage, per, sono ottenuti per quella risultati, che è stata una strage. Ora, quello che è importante, ma cosa si è ottenuto dopo questa strage? Cioè, cosa, che si sono bloccate le esternalizzazioni, okay, di queste professionalità, si è deciso di investire su assunzioni di professionalità importanti, ma soprattutto di estensione alle nuove generazioni di lavoratori di Enel di quelle professionalità. Certo. Non è un dettaglio. Trasferire delle competenze che sono decennali ai lavoratori che entrano dentro un'azienda non è un dettaglio rispetto alla sicurezza con cui poi viene svolto quel lavoro. È fondamentale. È fondamentale. Ora, questo meccanismo saremmo ipocriti a circoscriverlo a un'azienda come Enel e non guardarci invece con molta serietà attorno e inserirlo in un meccanismo di capitalismo che punta a ridurre quelli che sono i costi per aumentare i dividendi che vanno distribuiti. Certo. Ora, siccome è un meccanismo, siccome siamo in un contesto di cambio anche paradigmatico di un sistema produttivo, avere una focalizzazione non solo da parte dei singoli lavoratori che sono coinvolti, certo, ma di tutta l'opinione pubblica su questa forma di degenerazione che porta a ruota migliaia di lavoratori all'anno di non rientrare dentro le proprie famiglie perché hanno un'unica colpa: dover portare il pane sulla propria tavola. Certo. Ecco, questa è una battaglia che è una battaglia che deve essere concepita da tutti come una battaglia di civiltà. Qual è il sistema produttivo, economico e quindi sociale che vogliamo nel nostro presente, ma soprattutto, mi permetto di dire, lasciare alle generazioni future? Questa è la domanda, a mio avviso, che ci dobbiamo porre tutti, a prescindere dal ruolo che ciascuno di noi esercita nella società. Anche perché oggi è emerso chiaramente da tutti gli interventi che fondamentalmente la questione dei morti sul lavoro in Italia è legato agli appalti. Le differenze fatte con la Germania e con altri paesi, è chiaro che più appalti, più non si trasferiscono queste competenze, più si esternalizza, più si va a cascata e più ci sono morti. Ma è inevitabile. Il momento in cui viene frantumato il processo produttivo, è inevitabile che questo avvenga. Questo avviene con gli appalti, ma questo avviene anche con i contratti precari che ci sono all'interno, certo, dell'azienda. Ci sono vari modi per frantumare un processo lavorativo. E anche sugli appalti io ci tengo a voler segnalare le differenze, perché l'appalto al quale noi siamo abituati a vedere come opinione pubblica sono gli appalti dove noi abbiamo il massimo ribasso, certo, dove abbiamo l'applicazione di contratti collettivi pirata, dove abbiamo contratti precari, dove vengono mal pagate le persone, che sono una fascia importante degli appalti dove non a caso poi avvengono gli infortuni e le tragedie più gravi. Ma ci sono anche altre tipologie di appalti che sono altrettanto gravi, ma che dobbiamo focalizzare bene, tipo? Che sono quegli appalti dove le competenze sono elevate, certo, caso Enel, dove non abbiamo Eni, come dire, caso Enel, caso Eni, ci sono tantissimi casi all'interno dei nostri sistemi produttivi, perché si sta frantumando anche quel pezzo lì. Certo. Ora, nel momento in cui le competenze elevate non sono all'interno delle aziende, noi stiamo assolutamente alimentando un sistema di scarsa sicurezza che non è solo alla base del processo, ma è anche alla testa. Quindi stiamo nei fatti decidendo che il nostro sistema produttivo diventi una scatola vuota. Il problema è che... Ecco perché sì. Va sottolineata la differenza. Non perché i morti non hanno lo stesso valore, non perché... Ma per risolvere il problema. Ma perché il problema va risolto, e va risolto avendo la competenza di entrare nel merito ed evitare di ragionare per slogan. Perché quando si ragiona per slogan, il rischio è poi che anche davanti ai processi, nel momento in cui si valuta che il contratto collettivo applicato è giusto, che le retribuzioni sono retribuzioni adeguate e che i contratti con cui hanno assunto le persone vanno bene, che allora il problema non c'è. Certo, come diceva la Re Davide alla fine, che tutte quelle cose che ha fatto il governo, sia sul testo unico con la patente a punti, alla fine non sono cose significative, oppure anche le cose che vediamo sui contratti, sui vari, sul pubblico, no? Che non abbiamo firmato, tutta la questione. Poi alla fine non si va sullo specifico e non si risolvono i problemi. Non si risolvono i problemi, è l'obiettivo di chi lavora, l'obiettivo di chi rappresenta il lavoro e di chi dà voce al lavoro, è quello di andare alla sostanza, alla verità e alla risoluzione del problema, non impacchettarlo dentro scatole vuote che certo. Rischiano di allontanarci dalla soluzione nel momento in cui magari viene anche fatta una normativa che nei fatti è più forma che sostanza. La sicurezza nel mondo del lavoro è sostanza, non è forma. E formazione continua all'interno delle aziende. È formazione continua, ma soprattutto anche attenzione gestionale di processo e crescita all'interno delle aziende di tutte le professionalità necessarie perché quel flusso produttivo abbia una sorta di voce unica vista anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza delle persone che ci sono all'interno. E alla Filcita, visto che parlo con te, il prossimo contratto, lo affronterete tutte queste cose? Cosa avete intenzione di proporre? E anche tu sei anche la segretaria comunque importante, la CGIL, cosa pensi che dovremmo fare tutti quanti noi? Voi in Filcita e noi nel resto delle varie contrattazioni? Sicuramente quello che bisogna fare è evitare di seguire con modalità alternative quella che è l'attuale frantumazione del processo. Certo. E l'attuale frantumazione del processo, per risolverla, deve vedere che tutti i lavoratori che sono all'interno di un sito devono, nella fattispecie della Filctem, devono avere lo stesso contratto collettivo nazionale. Ok, ti ringrazio, saluto, ci sentiremo presto. Perfetto, grazie Ciao. A te. Say them want link with the general. Say them want the high grade medical. Them no want fi move with no boy where you move like snitch and a move like federal. Say them want fi roll with the gargan. Them no want fi roll with no pagan. Chase and status a champion. And everybody don't know the program. Boy could have big and thick like Hulk Hogan. But if it this bitch I know we have fi cool one. Boy could have big and thick like Hulk Hogan. I know where my feet, know where my feet. Boy, could I be gone, think like all poor God. What if it is, bitch, I know where my feet. One. Chase and status a champion. And everybody don't know the program. Well, if I war bomb, we'll make it start up. Bumba rap clad, what if I be clad up? Well, if I war bomb, we'll come tell me no. I see the big man, kill him, no shadow no. Him and no bad man, I must say mad man. Bout the fire, gun shot and dead program. But them not woman, car gun. Fly them blood clad, that it a me slogan. Say them want link with the general. Say them want the high grade medical. Them no want fi move with no boy where you move like snitch and a move like federal. Say them want fi roll with the gargan. Them no want fi roll with no pagan. Chase and status a champion. And everybody don't know the program. Me a tell her no, gun chat carrel her no. Sound boy you a go dead no matter where you do. Me a tell her no, listen a to. This a the big 4-5 who no want no. This a no plating, tiny kiting. Bullet a ball on a gun on a gun on your ears ring. You no ear king, all that ear sting. You must be run back a gun from me virgin. Allora, stupendo questo pezzo musicale, fantastico, bisogna dirlo. Poi ricordo a tutti che la puntata, per chi non l'avesse ascoltato, anche quella di Amazon, molti non sono riusciti ad ascoltarla martedì scorso, trovate tutto sulla pagina podcast del Pane e Rose su Facebook, andate pure sulla mia pagina, ormai molti vedo che mi seguono direttamente. Mi raccomando, seguite la pagina del Pane e Rose, non seguitemi a me, non è importante seguire me. È chiaro che lo metto anche nella mia pagina Facebook, la puntata con il podcast e tutto, però andate sulla pagina del Pane e Rose e troverete là i podcast e tutto, e tutte anche le puntate passate, per chi si fosse perso quella di Amazon, visto che molti mi hanno scritto dicendo che non sono riusciti ad ascoltarla. Ora, poi anche le puntate vecchie, uno basta che clicca sul link del podcast e là ci sono tutte, no? Non è che si può ascoltare solo quella che viene linkata. Io non sono un esperto, c'è il grande Pierre che mi segue la pagina podcast, però è chiaro, uno va lì e poi le trova tutte, ce ne sono tantissime. Ora, Stefania Pisani ha detto delle cose importantissime. Ha detto fondamentalmente sul caso di Suviana che c'erano stati degli scioperi prima del caso Suviana e che riguardavano proprio quella situazione in cui veniva affidato a dei lavoratori non dell'Enel, ma in appalto, una manutenzione ordinaria che prevedeva una capacità di intervento e delle capacità professionali elevate. C'è stato uno sciopero importante e c'è stato un passo indietro da parte di Enel sull'esternalizzare queste tipologie di manutenzione che hanno bisogno di a livello di professionalità molto elevato. C'è stata una richiesta chiara che venissero assunti degli specialisti sotto l'Enel. Lei ha spiegato bene come esistono due tipologie di appalto e di distruzione dell'organizzazione del lavoro. C'è il classico appalto al ribasso, c'è il classico precariato che colpisce chi lavora in appalto, c'è la questione dei contratti che non corrispondono. Abbiamo visto il caso del metalmeccanico morto in tangenziale che faceva un lavoro degli edili, no? Due puntate fa abbiamo affrontato questa questione. C'era anche lì Stefania Pisani che mi ha detto: hai visto che succede? Cioè, lui aveva un contratto, era tutto assunto, ma gli hanno fatto un contratto metalmeccanico in cui la sicurezza non c'entra niente con quella degli edili, è tutta un'altra cosa. Ha spiegato Simonazzi, segretario della filiera di Bologna, e lei parlava di questo, come parlava anche di altre questioni legate al subappalto, ma lì stiamo parlando della pauperizzazione del lavoro voluta e dovuta proprio ai contratti pirata, ad esempio. E questa è una tipologia di appalto che porta ad aumentare gli infortuni, a creare moltissimi infortuni e fa la differenza. Cioè, a Suviana, se mi ha spiegato benissimo, segretario della FIOM, come in Germania in realtà gli infortuni davanti a una popolazione lavorativa di 45 milioni di persone, ci sono 300 infortuni mortali, noi davanti a una popolazione di lavoratori di 24 milioni di persone abbiamo 1100 infortuni, ma se andiamo a vedere tutti sono dovuti nel mondo, la maggior parte nel mondo degli appalti, e Stefania Pisani l'ha spiegato. Ma c'è un'altra faccia della medaglia di cui chi come lei sta in Filchtem questa cosa qui la vede palese, ed è il caso Suviana, laddove non c'è la precarizzazione, non c'è l'appalto al ribasso, ma c'è un fattore fondamentale che si sta mandando affidando a delle aziende operazioni importanti, operazioni, il core business spesso di un'azienda o di una produzione, di un'organizzazione del lavoro, la si dà fuori, la si dà ad alte ditte. Questo fa sì che le professionalità si perdono e si rischia di avere una situazione in cui l'infortunio avviene anche se non hai il precario, anche se non c'è l'appalto al ribasso, anche se non hai un contratto pirata, anche se non hai tutta questa situazione qui, ma hai fondamentalmente un problema di frammentazione dell'organizzazione del lavoro che poi alla fine porta alla morte, perché ci sono dei lavoratori che non sono esperti al 100% su quel sito, sono esperti di quel tipo di lavoro, ma non conoscono il sito in maniera approfondita. Abbiamo visto anche quello che è successo in Toscana, abbiamo fatto una puntata dedicata alla strage vicino a Firenze, in cui anche lì c'era l'ENI in questo caso, e lo stoccaggio della benzina, e anche lì, cioè, abbiamo a che fare non con lavoratori che non sono esperti, ma quello che dice Stefania Pisani è importante, perché lei dice una cosa molto ben precisa: noi dobbiamo ricominciare a ragionare nel sito produttivo, e in quel sito tutti devono avere lo stesso contratto e tutti devono essere sotto la stessa organizzazione del lavoro, sotto la stessa direzione. Bisogna evitare la frammentazione del lavoro in tutti i casi, non solo nel caso legato alla precarietà o al ribasso, ma tutti i casi. Anche bisogna impedire che si perda professionalità, che si perdano saperi che vengano esternalizzati, soprattutto anche operazioni di lavoro che sono importanti. Dunque non solo la classica esternalizzazione al ribasso, ma anche l'esternalizzazione di core business e di parti importantissime, come possono essere la manutenzione ordinaria e anche straordinaria di siti delicati, importanti. Questo non deve più accadere. Ecco, questa è la battaglia che dovremmo fare, questa è la battaglia che dobbiamo fare obbligatoriamente per diminuire questo numero e portare dimezzare questo numero e arrivare veramente, non dico l'infortunio zero che è impossibile, ma dei valori ancora più bassi della Germania. Questo si può fare e dobbiamo farlo, ma questo si fa solamente se facciamo una battaglia, cambiamo la società, facciamo una battaglia sindacale radicale, una rivolta sociale che non può essere solamente il voto. Dobbiamo veramente fare una battaglia partendo dai contratti nazionali per cercare di ottenere dei contratti in cui noi scriviamo queste cose e riusciamo anche a far passare delle norme, se facciamo anche una battaglia politica, che guardino a questo modello, un modello che difende veramente i luoghi di lavoro, il lavoro e la salute delle persone. A presto. Orgulloso de estar, entre el proletariado.